raindrops on roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Tre civette sul comò, rubrica di varie cose delle donne. Questa sera ho 20 anni, l'età dell'amarezza. Mireille Vè. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera. Ci occuperemo oggi di una scrittrice francese lesbica che solo da pochi anni conosce una rinnovata notorietà, grazie soprattutto all'incredibile patrimonio degli eccezionali diari rimasti inediti fino all'inizio di questo secolo. Un'autrice che sarebbe bello poter conoscere e leggere in Italia come patrimonio comune delle lesbiche. Mireille Avé nasce il 4 ottobre 1898 a Medan, secondogenita di una famiglia posta all'incrocio tra benessere borghese e moderata bohème. Il padre Henri, infatti, è un artista placidamente accademico e tendente alla depressione. La madre Leoncine viene da una famiglia di agiati commercianti. La sorella Christiane completa il quadro. La tranquilla vita provinciale dona a Mireille Avé un'infanzia e una preadolescenza luminose, in un'atmosfera artistica, ricca di frequentazioni letterarie ed artistiche. Nel 1907 però un cambio si impone. Nella speranza di rilanciare la mediocre carriera artistica di Henri, la famiglia Avé si trasferisce a Parigi, in Rue Renoir, 16° arrondissement, quartiere carico di presenze notabili dell'aristocrazia e della storia, di ricordi artistici e letterari, che resterà fino alla fine la residenza ufficiale di Mireille. Qui il giro mondano degli Avé si amplia, includendo pittori e letterati, tra cui non si può non nominare almeno Guillaume Apollinaire. Una delle amicizie più interessanti, però, dal punto di vista della piccola Avé, è sicuramente quella con la coppia formata da Philippe Berthelot, diplomatico assai in vista nella Parigi della Terza Repubblica, e Hélène Linder, una bellezza priraffaellita. Si tratta di un'amicizia importante, poiché Hélène diventa per Mireille, sia pure in modo platonico, una di quelle figure quasi mitiche di donne, madri e amanti che cercherà per tutta la vita. Inoltre, è nel frequentatissimo salotto di Berthelot che Mireille e la famiglia incontreranno intellettuali e mondani come Paul Claudel, Colette, Jean Giraudoux, Paul Morin. Un'altra amicizia importante della nuova vita cittadina degli Avé è quella con un'attrice di origini russe, l'aristocratica Ludmilla Savitsky, scusate, bella, colta, gentile, materna, anch'essa destinata a diventare una stella dell'empireo erotico-amoroso della giovane Mireille. Gli anni fino al 1913, quando inizia il diario di Mireille, non sono ben conosciuti, ma dalle preziose testimonianze di Ludmilla possiamo vedere la famiglia Avé salire nelle frequentazioni mondane, artistiche e letterarie e scendere inesorabilmente lungo la china della quasi povertà, discesa che la sostanziale mediocrità della pittura di Henri non può frenare e lo snobismo di Leoncin non può accettare, così che ella si industria di nasconderla in ogni modo pur di poter ancora offrire piccoli eleganti ricevimenti e deliziose soirée. Forse è qui che comincia a formarsi un'incrinatura nella natura di Mireille Havet, qualcosa che sembra corroderne il senso di realtà. È in questo vivere al di sopra dei propri mezzi, senza mai scendere a compromessi con la vita. Molti anni dopo rifletterà sull'atteggiamento dei genitori e in special modo della madre, senza saperne vedere però i potenziali pericoli. Scrive: che l'avesse torto questa mia madre sublime e chimerica, io non lo credo. Non lo crederò mai, perché fino alla sua morte, malgrado le difficoltà crescenti, ella mi diede, se non l'illusione della fortuna, almeno la gioia di una vita senza amarezze, ove ella non fece alcuna concessione al denaro, mi evitò ogni preoccupazione materiale, mi permise di istruirmi come la più libera delle fanciulle, senza che io abbia mai dovuto né scendere la scala sociale, né soffrire delle promiscuità o della schiavitù che creano lavori forzosamente intrapresi e senza alcun rapporto con le nostre inclinazioni. Without you. Without you, without you. love without you. Le sfortune della famiglia Ve deflagrano nel 1911. È l'anno in cui le tendenze depressive e suicide di Henri Ave ne decretano il ricovero in istituto fino al giorno della morte. Il diario di Mireille Ave inizia il 9 marzo 1913, di domenica, in occasione di un ricovero ospedaliero per un'appendicite. Scrive: «Sono triste, questa giornata è stata triste e lunga. Ho visto maman, Christian e Paul, sono restati molto poco. Quanto mi sento sola e piccola. E com'è bizzarro che da quando io sono qui, sfortunata, immobilizzata dalla luce bianca delle pareti, la vita degli altri continui gioiosa, animata, mondana. Vi è già il senso di una deriva, di un distacco dalla felicità, appena un presentimento forse, ma tragicamente confermato dalla vita. I primi tempi il diario sarà una presenza incostante, ma nel corso degli anni, a misura che il suo talento letterario si rivela, si impone, abbaglia tutti e poi comincia a spegnersi sotto i rovesci della sfortuna e delle debolezze di Mireille, il diario guadagna spazio ed energie. È forse l'opera di Mireille Ave quella di cui si può dire un grande futuro alle spalle. Ella pubblicherà molto poco in vita, una raccolta di versi e prose poetiche dal titolo La Maison dans l'Oeil du Chat nel 1917 e un romanzo a chiave, Carnaval, nel 1922. Ma se la Maison nasce accompagnata e benedetta da una prefazione di Colette, già Carnaval, romanzo a chiave in cui tutta la Parigi ben informata riconosce la burrascosa storia d'amore, degrado e sadomasochismo tra la scrittrice e la contessa Madeleine de Limour, segna il non ritorno da un limite che Mireille ha varcato senza più tornare. I suoi tentativi di continuare a scrivere si infrangono su un disordine di vivere che ne mina alla base ogni possibilità. Solo il diario rimane esercizio costante, per quanto anch'essa rifletta, negli ultimi volumi, un progressivo frammentarsi di coscienza, della visione unitaria del sé, sotto l'azione della droga, dell'alcol e del disgusto di sé. L'educazione formale di Mireille si compie in collegio, ma ella pubblica già all'età di 15 anni la sua prima prova di prosa poetica, La Maison dans l'Oeil du Chat, testo sensibile alla descrizione della natura e delle atmosfere agresti, che poi confluirà nella raccolta omonima. L'accoglie la rivista Les Soirées de Paris, nel numero 19 del dicembre 1913, per intervento di Apollinaire, l'amico di famiglia. Il suo nome comincia a circolare come quello di una giovane promessa, sfolgorante di possibilità. È il tempo giusto, quello di una generazione di donne romanziere che si sono imposte sulla scena letteraria francese e che rendono possibile anche la potenziale carriera letteraria della fanciulla. Tra 1913 e 1914 il diario comincia a registrare sempre più spesso rapide folgorazioni e contemplazioni estatiche rivolte verso le donne, che siano le fanciulle in fiore della scuola o donne adulte come l'amica Ludmila, con cui intrattiene rapporti ambigui, velati di sensualità. Estasi, fascinazioni veloci e incostanti come in un caleidoscopio di sensazioni e languori, ma che le sedicenne Mireille riesce a registrare con notevole precisione. Amo Lili d'un amore fisico, non posso dire quanto il suo calore acciti la mia sensualità. Nell'autunno 1914 scriverà, a proposito dell'amica Marie-Thérèse Véron, che assume presto nel diario di Mireille un ruolo del tutto centrale: l'amo? Sì. Differentemente? Sì. E in quel differentemente passa tutta la lucidità di Mireille e la sua accoglienza della differenza in questione. Alcuni mesi dopo scrive ancora: voglio averla, farla mia nel dono completo dei suoi segni ancora inviolati, e poi aggiunge: la voluttà di una carezza femminile è talmente superiore alla volgare carezza maschile. Gli slanci erotico-sensuali di Mireille non passano inosservati alla madre e alla sorella. Lei registra la loro ostilità, registra anche le loro pressioni riguardo allo studio. Bisogna pure pensare al futuro di una giovane donna che chiaramente dimostra di non pensare affatto ad una carriera matrimoniale. Mireille sbuffa: ecco che mi si parla del lato pratico dell'esistenza, dell'insegnamento, di sforzo, a me che vado in faccia al mondo con le mani piene di rinnovamento, di desiderio creatore, di sane esperienze e di gioiose follie. È qui che la giovane scrittrice comincia a costruire il suo credo, quello della forza inarrestabile del desiderio opposta alla meschina morale borghese, che la vuole incatenata al letto coniugale e o alle miserie del lavoro dipendente. Riflette: dove comincia il male? Dal momento che si ama con o contro la natura, tanto vale seguire l'amore. Gave me just a coin for every time we say goodbye. Well, I'd be rich beyond my dreams. I'm sorry for my weary life. I know I'm not perfect, but I can smile, and I hope that you see. Ricordo che siete in ascolto di Tre Civette sul Comò, con una puntata dedicata alla scrittrice lesbica Mireille Havet. È nel salotto dei Berthelot, estate 1916, che Mireille conosce la regina dell'ambiente lesbico parigino e internazionale, Nathalie Clifford Barney, scrittrice, saloniera, irresistibile seduttrice seriale di donne. Una quarantenne più che mai affascinante, ma Mireille punta piuttosto a un'altra frequentatrice dei Berthelot, la potente e altrettanto seducente Colette, che l'accoglie sotto le proprie ali e l'anno seguente scriverà una breve quanto prestigiosa prefazione alla raccolta La Maison d'Aloël du Chat. La guerra comincia a volgere verso la fine quando Mireille, saputo che una delle sue fiamme della pubertà ha avuto un figlio, redige nel proprio diario un vero e proprio programma esistenziale. La novità più di tutto mi attira. Nessun limite, nessun freno, nessun contrasto. La libera corsa a perdifiato col vento che fischia nelle orecchie e il paesaggio che ruota sui due lati. Man mano che abbandono l'infanzia, acquisto un desiderio illimitato di fantasia. Non accetto nessuna regola, nessun obbligo. E quelli la cui vita è sottomessa al controllo di una qualsivoglia morale mi paiono dei poveri prigionieri. Vorrei salvarli, togliergli la benda dagli occhi, armarli di un solido bastone e lanciarli sulla strada. Allora potremmo prenderci per mano e per un attimo correre insieme a perdifiato. In questa corsa a perdifiato Mireille perderà anche la vita, non senza penare prima immensamente. A 18 anni ha già la percezione acuta di un'attitudine. Non credo in niente se non nella bestialità, nella pesante soddisfazione dei miei sensi. Dichiarazione gravida di conseguenze, la cui responsabilità enorme ella non saprà gestire. A quest'epoca inizia forse una lenta, lentissima perdita di controllo, per quanto vissuta con una perenne disarmante lucidità. È quando ammette una sostanziale debolezza ambientale, un lasciarsi trascinare dal caso, dagli eventi, dagli incontri. Sento con chiarezza di essere potenzialmente adatta sia al lavoro che alla pigrizia e che molto dipende dall'esempio che ricevo. Potrei lavorare naturalmente e con facilità in compagnia di letterati e pedagoghi, così come potrei bighellonare con gli inconcludenti e potrei amare il lusso e il denaro dissipato con donne dalla morale incerta. Tutto deriva per me dall'ambiente. Alla fine della sua vita sarà chiaro, soprattutto a se stessa, come abbia scelto il côté dei dissipatori e degli inconcludenti, poiché viene il suo atteggiamento verso la vita quello che lei chiama «la mia incoercibile e nativa debolezza», il non saper coltivare l'impegno, la disciplina, la determinazione. Nel novembre 1917 Mireille Havet taglia i capelli. È nell'aria del tempo. Il brutale e irreversibile sconvolgimento sociale, politico ed economico causato dalla Prima Guerra Mondiale si riflette anche nelle scelte estetiche delle donne. Gonne al polpaccio, linee morbide ed essenziali, semplificazione dello stile. Tuttavia, il taglio corto è ancora una scelta piuttosto coraggiosa, che avrà richiesto una certa riflessione prima e un notevole coraggio nell'affrontare gli sguardi altrui poi. Una scelta, però, che va chiaramente ben oltre la misura estetica. Scrive dell'esperienza: «Il mio cuore si ricopre di una nuova pelle, cambia identità». Una foto che la ritrae in questo periodo mostra un viso delicato e ancora infantile. Ma sono le pagine del diario a registrare, dietro le parvenze angeliche, piaceri molto meno delicati, amanti senza numero, seduzioni multiple, serate orgiastiche in cui si concede a più amanti in un viluppo inestricabile di corpi e di desideri. God forgive me, I'm out of my element. And I can't seem to keep them all straight. I've forgotten which people I like and which people I hate. And I'm waiting for someone to shake me and say, forgotten which ones I should skip and which ones I should take, and I'm waiting for someone to shake me and say, hey, bitch, don't quit, you're almost dead, don't give up now, make friends instead of going out, go home and start. All the time it takes, and I can't seem to keep myself straight. I've forgotten which habits to hide and which habits to fake, and I'm waiting for someone to shake me and say, del desiderio e dell'incoscienza volutamente esercitata, Mireille Havet sperimenta e forza limiti, confini e possibilità del genere, facendone specchio nella scrittura. L'erotismo è tratto specifico della sua scrittura diaristica, in cui Mireille trova parole per dire l'innominabile nella scrittura delle donne, la sessualità femminile, le sue particolarità, i suoi misteri, le sue perversioni. Le sue parole raccontano tutto, la febbre, il desiderio, il furore, l'esasperazione e persino le miserie, senza mai scendere nella descrizione anatomica, senza mai nascondersi però dietro metafore sublimate o allusioni decadentiste. Una donna dalle gambe aperte spande il suo profumo senza nulla mostrare. Bisogna che le dita o la lingua vadano a cercarla per stuzzicare e succhiare la sua dolcezza, per baciarne le labbra avide e chiuse fino a che non coli il suo piacere profumato. Amo le donne, ho bisogno di un amante e l'avrò. Nel frattempo, la fanciulla en garçon è pronta per entrare finalmente nel salotto di Natalie Clifford Barney, introdottavi forse da Colette. Prometeica nei suoi slanci e nelle sue golosità, scrive inebriata la fine della sua serata. Eccomi finalmente qui, visibile, in questo ambiente equivoco velato di belletti e stracci, valorizzato dagli opportuni vizi. Eccolo, sono qui, è il gran mondo di Parigi. Oh, Miss Barney, nella sua casa dalle audacie mitileniche, con la sua voce da giovane uomo e la grazia eccessivamente femminile. Con Miss Barney ci siamo comprese fino in fondo, senza dubbio, quando le ho dedicato le parole con l'affermazione con un sorriso fine e complice ella mi ha detto sulla soglia: continuate l'affermazione dell'essere doppio. Donne che amano le donne, donne tra di loro compagne, come degli uomini quando il desiderio non si leva tra di loro, donne la cui razza dannata brulica e cresce nella grande città di Parigi. A partire dal 1918 però Mireille diventa insofferente. Comincia a sentirsi stanca di interpretare l'enfant prodige letteraria, esposta come un animale raro. Sono un giocattolo nelle loro mani, sulle labbra di tutti il mio nome, la mia piccola identità che aspirava un tempo al lirismo rimbalzano come un numero da fiera, un'attrazione di successo che non costa poi troppo. E aggiunge poi, con folgorante misura: ho 20 anni, l'età dell'amarezza. Ad ogni nuova pagina aggiunta, il diario si rivela sempre di più per la scrittrice il luogo in cui tirare il fiato per un attimo, in cui la riflessione, la lucidità, l'onestà di fondo si accompagnano al disgusto di sé e degli altri, nonché ad una straziante compassione verso la propria irrefrenabile discesa agli inferi. Non che ella voglia frenare questa discesa, anzi, sempre di più e con più coraggio s'abbandona alla febbre di consumare tutto in fretta. Il mio violento desiderio di possesso immediato fa sì che io soffra infantilmente, come d'una mancanza che io non possa legarmi d'amicizie per sempre, nel momento stesso in cui vedo un essere verso il quale si accende la mia simpatia ardente. Perché tanti preamboli, tante perdite di tempo, tanti momenti di conoscenza sparpagliati in ore lontane e in parole sempre diverse? Non sarebbe meglio approfittare dell'aureola che accompagna per qualche tempo l'essere a noi nuovo? Non sarebbe meglio approfittare dell'illusione? Ahimè, sarebbe stato molto meglio, invece di attendere e fare della psicologia, fare l'amore con Mary subito, quando il nostro desiderio era ancora reciproco, quando ci conoscevamo abbastanza poco perché ciò avesse un bel sapore di scandalo e di avventura curiosa. Attendere, sempre attendere. Sottomettersi alla vita capricciosa che arretra, fino al disinganno totale, i limiti della felicità. Siamo davvero troppo lenti e io sento montare in me una sorta di sensualità brutale e immediata che mi fa desiderare l'esaurimento rapido delle mie bramosie, senza parole, senza perdono. L'inizio degli anni venti è caratterizzato da alcuni avvenimenti fondamentali. Il primo è la morte della madre, che fino a quel momento l'aveva in qualche modo contenuta nelle sue follie, oltre a fornirle i mezzi economici di cui aveva bisogno. Il secondo è l'incontro con Marcel Garraud, che nel momento stesso in cui sembra fornirle protezione e accoglienza, la introduce all'uso delle droghe. Il terzo è l'incontro devastante con la contessa de Limour, che la cattura in un sentimento ossessionato e crudele. Avvenimenti. Tappe fondamentali di un processo di autodistruzione e perdita iniziato dapprima insensibilmente, poi accelerato fino a divenire una valanga inarrestabile. Mireille passa freneticamente di letto in letto, di droga in droga. Diventa dipendente economicamente e materialmente dalle sue amanti, che cambia a velocità vorticosa. Donne affamate di lei, cui però non sa più dare, devastata com'è dalla droga, quella passione febbrile ed esaltata che era il suo fascino più grande. Quando anche le ultime amanti l'abbandonano, si prostituisce sui marciapiedi di una Parigi luciferina, mendicando l'aiuto dei pochissimi amici rimastigli. Gli stessi che le troveranno un ricovero in cui morire, finalmente, il 21 marzo del 1932. Dopo il successo scandaloso di Carnaval, nel 1922, ha ormai smesso di scrivere, se non il diario che continua come una dolorosissima via crucis, snocciolando illusioni, delusioni, sconfitte, malinconie, disperazioni, rinunce. Scrivendo con quella costanza della registrazione, lei che non è costante in nulla che non sia occasione di vizio e perdizione, confessando tutto, anche le miserie più abiette e scoraggianti, sue e delle sue amanti. Ma soprattutto cesellando una scrittura febbrile, complessa, che non rinuncia mai al piacere della metafora e dell'eleganza letteraria, anche per registrare le cose più sordide, e che dipinge con la precisione dell'immagine l'indicibile di una vita sull'orlo del disastro. Come un rullo compressore che avanza, che non conosce alcun ostacolo e che fa lentamente il suo lavoro d'ora in ora, la morfina ha distrutto tutto, ha scalzato tutto, ha annientato tutto, e io tutto ho perduto. La mia amica, il suo denaro, le nostre case, la mia fiducia, la mia salute, i miei anni, il mio talento, il mio coraggio, la mia freschezza, l'amore, anche l'amicizia. e la poesia che si è ritirata da me come il mare abbandona una rupe troppo ingrata e che ormai, frastagliata, rude, derelitta, spaventosa nel suo eterno isolamento, si leverà sola sui flutti, senza uccelli e senza semi, senza soprattutto la terra perché i semi portati dagli uccelli possano attecchire, senza nulla all'infinito e nell'eternità che il cielo e la terra, entrambi lontani e disgustati di lei. Ho perduto tutto, la mia vita, il mio istinto di sopravvivenza, la mia ripugnanza al male, il gusto, infine, di prendermi cura di me. What I choose to do is a no concern to you and your friend. May not be my hope, but I will last on my own, 'cause it's me and my life, it's my that you see. Nel 1932 la parabola è compiuta. Mireille è gravemente ammalata, la droga l'ha annientata, il senso morale di sé perduto. Vaga sui marciapiedi di una Parigi indifferente, prostituendosi per un'altra dose. Una colletta raccolta da amici la spedisce in un sanatorio, ma è troppo tardi. Morirà il 21 marzo del 1932. Il suo archivio, le prose inedite, l'epistolario, i diari soprattutto che nessuno conosce, tutto viene affidato per testamento a Ludmila Savitsky. Morta Mireille, di lei si perde ogni ricordo. La valigia in cui sono conservati i suoi materiali, che nel corso del tempo passa di mano in mano, viene a sua volta dimenticata, finché nel 1995 non viene fortuitamente ritrovata in una cantina dalla nipote di Ludmila, che riconosce il valore inestimabile del ritrovamento. Il diario, soprattutto, si rivela come un documento storico e umano eccezionale e comincia ad essere pubblicato a partire dal 1998, un'impresa che continua ancora. Parigi, 11° arrondissement, posta tra Rue du Faubourg Saint-Antoine e la Rue Federbe, un'ampia piazza dalla forma irregolare reca una targa che afferma, perché nessuno lo dimentichi più, Place Mireille Havet, écrivain français. Bene, vorrei ringraziare Claudia per l'assistenza tecnica e ricordarvi che abbiamo ascoltato brani di Billie Holiday, Dido e Amanda Palmer. Buonanotte. Thank you.